Eccoci qua, adesso parleremo di una delle linee più ambite che tutti vogliono sapere, ed è la linea del cuore. Chiudiamo insomma questa puntata attraverso la linea del cuore. Questa linea attiva le qualità emotive dell'individuo e indica inoltre le condizioni fisiche dipendenti dal cuore. Una linea chiara e ben formata rappresenta le simpatie e gli affetti saldi. Se profonda e colorata è anche segno di un cuore forte. Se ampia, la linea indica un amore che finisce, spesso per gelosia egoistica. Quindi guardate bene la vostra linea, vedete se questa linea, cioè la linea del cuore, tra l'altro, scusate, io non ve l'ho detto, è quella che praticamente va ad essere, parte praticamente dal dito indice e va a finire a quello mignolo. Ed è la prima linea che voi vedete che scorre in orizzontale sul vostro palmo della mano. E niente, poi continuiamo. Se la linea inizia sul monte di Saturno, indica che l'amore è dominato dall'emozione sensuale. Quindi guardate il monte di Saturno. Vi ricordate qual è il monte di Saturno? Io neanche me lo ricordo, quindi vado a prendere di nuovo il mio bel libro con gli appunti e vi dico subito qual è il monte di Saturno. Penso che sia molto, veramente molto complicato effettuare un'analisi ben approfondita al riguardo della. Ecco, io non trovo più il mio schema. Saturno, eccolo qua. Saturno praticamente è il dito medio. Saturno, quando inizia da lì, si vede che gli amori solitamente finiscono per gelosia egoistica. Frastagliature, invece, sono indice di una disposizione ad avere avventure amorose che spesso rilevano un cuore instabile. Quindi, guardate, se abbastanza frastagliate, si vede che non siete tipo da storia seria, sostanzialmente. Se la linea inizia sul monte di Saturno, indica che l'amore è dominato dall'emozione sensuale e indica una natura di tolleranza che spesso perdona. Quando la linea del cuore invece inizia con la linea della testa, rivela un'indole invidiosa in cui il cuore è sempre succube della mente. Diramazioni che partono dalla linea del cuore e scendono verso la linea della testa rivelano delusione in amore o in amicizia. Guardate un attimo se vanno dalla linea del cuore a quella della testa. Vivere delusione in amore e in amicizia. Bene, più o meno queste sono le linee guida che io vi ho dato stasera. Naturalmente con una semplice puntata non riusciamo a delineare bene come effettuare una semplice lettura della mano, anche perché penso che quello sia uno studio molto approfondito. Poi un dettaglio che io non vi ho detto è che praticamente c'è differenza tra la mano destra e la mano sinistra. Per chi praticamente è di mano destra, nel senso che fa tutto con la destra. Praticamente la mano oggettiva è la destra, mentre quella soggettiva è la sinistra. Questo vuol dire che la propria esperienza è scritta sulla mano sinistra, non su quella destra. Mentre per chi è mancino è il contrario, nel senso che la vita soggettiva la si legge sulla mano destra, mentre quella oggettiva su quella sinistra, quindi è un po' il contrario. Per chi è ambidestro, onestamente non ci ho pensato, non ve lo so dire, però. Al limite posso fare una ricerca e dirvelo in altre puntate di questa rubrica. Naturalmente c'erano altre cose da dire. È una puntata sola, diciamo un'ora e mezza soltanto per parlare della lettura della mano e per ascoltare della buona musica, non è sufficiente per parlare di tutta questa cosa. Io per questa sera vi ringrazio di averci scelto, di aver prestato attenzione e ascolto come al solito. A questa rubrica, spero che anche per quest'anno vogliate accordarmi il vostro consenso e i vostri ascolti, anche perché io aspetto come al solito i vostri suggerimenti, aspetto di sapere cosa vi interessa sapere, quale argomento bisognerà trattare nelle prossime puntate. Io, come vi ho detto all'inizio, ho fatto una scaletta. Questa scaletta può essere naturalmente riveduta, riscritta, modificata in base ai vostri interessi, perché noi siamo qui per fare del buon intrattenimento. Quindi, qualora abbiate delle richieste, dei suggerimenti, scrivete a radioluzzi@hotmail.it. La nostra presidentessa Cristina sicuramente presterà ascolto, così come anche i ragazzi del clan. Seguite le dirette di altri programmi dei ragazzi e iscrivetevi al gruppo di Web Radio Luzzi, perché così sarete informati su tutti gli avvenimenti, su tutti gli eventi, su tutte le rubriche che metteremo in atto. E poi quest'anno, come vi ho detto dall'inizio, farò un'altra rubrica di genere noir. Spero che questa rubrica piacerà e nulla di che. Io per questa sera vi ringrazio, vi auguro buonanotte e restate sempre con noi. Questa era Sulla linea d'ombra.